Va bene anche questo, io normalmente prendo quello tradizionale, ma va bene quello moderno per l'iPad che uno mette sopra, va bene. Buonasera Chiesa, è bello averci? Lo vivi come una grazia di Dio il fatto che ci apparteniamo e che siamo una famiglia in Lui? Certo, dice una famiglia un poco, ma così è, così è. Siamo la sua famiglia e di questo dobbiamo andare orgogliosi e dobbiamo essere fieri di appartenere a lui. Ora, prima di passare a quello che è il soggetto di questa sera, io voglio fare una piccola premessa, perché è importante la premessa, in quanto tutto dipende da questa premessa. E cioè, innanzitutto noi parleremo della nostra vita pratica, la nostra vita quotidiana, quello che affrontiamo, però è importante che noi comprendiamo questo: la parola di Dio è dentro di noi, usala, perché è per me. Se noi abbiamo un punto di vantaggio, non è perché siamo più, ma semplicemente perché abbiamo la parola di Dio dentro di noi, perché essa traccia una strada e ci indica il modo come percorrere quella strada. Ecco perché è importante che noi mettiamo al centro della nostra vita la sua parola, che ci indica come fare, che cosa fare nelle situazioni che noi viviamo, perché ognuno di noi, anche oggi, se noi andiamo a chiedere per quanti siamo, ognuno ha una situazione particolare che sta vivendo. Ed è la parola di Dio che ci permette di affrontare e uscirne vittoriosi, il meglio per noi. Ecco perché la dobbiamo usare. Non ci dobbiamo accontentare del semplice, per quanto importante sia, del semplice nutrimento della predicazione, ma ci dobbiamo nutrire della parola, perché è la parola che veramente ci permette di vivere una vita all'immagine di quello che il Signore ha per noi. E con la parola noi possiamo affrontare e vincere ogni situazione. Anzi, proprio questo è quello, e qui iniziamo, è proprio questo che Paolo, l'Apostolo Paolo, raccomandava a Timoteo, che era il suo figlio spirituale, che era il suo tutto, perché lo mandava dappertutto. Vedete quello che leggiamo da 1 Timoteo al capitolo 6, il verso 11 e 12, leggiamolo insieme, saranno sempre proiettate, abbiamo tanti passi proprio per indicare che la parola di Dio è per noi veramente il percorso. Dice: ma tu, puoi anche leggere, ma io, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Paolo dice al suo figlio spirituale: combatti il buon combattimento. E ognuno di noi, ogni giorno, ogni momento, ha un combattimento. Combattimento non è negativo. Combattimento vuol dire che in ogni situazione noi dobbiamo fare una scelta, per ogni situazione dobbiamo prendere una posizione, e questo è combattere, perché noi vogliamo fare la scelta giusta, vogliamo fare il passo giusto, vogliamo avere il meglio per noi e per quelli che ci appartengono. Ecco perché Paolo dice: combatti il buon combattimento. Ma io sono innamorato di Paolo, perché non è uno solo che dà buoni consigli. Quante volte noi diamo buoni consigli, che sono anche della parola di Dio, agli altri, e invece di e invece di rialzarli li sediamo, va bene, semplicemente li sediamo. Non è dare solo il consiglio, ma mostrare se stesso. E Paolo mostra proprio, dando testimonianza della sua vita, che cosa vuol dire il buon combattimento, che cosa vuol dire combattere, come combattere e che cosa combattere. Perciò leggiamo da 1 Corinzi, ho detto che ci sono tanti versi, perciò poi li leggiamo da 1 Corinzi al capitolo 9, il verso 25 e 26, dice, conosciamo molto bene questo passo, è vero, chiunque fa l'atleta, beh, noi siamo tutti atleti di Dio. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. L'apostolo Paolo, per dare testimonianza di come lui vive l'Evangelo e come lui vive il suo ministero, fa degli esempi, e fa degli esempi di sport. Insomma, non è che è proprio il pugilato, però l'ha fatto. Il pugilato non è proprio una cosa bella, è violenta, a me non piace come sport, però Paolo ha fatto questo esempio per mostrare che l'atleta è tale in funzione di che cosa? Quando è che diventi un atleta? Possiamo dire, quando ti alleni, è l'allenamento che ci rende un atleta. È l'allenamento è fare e poi fare e poi fare ancora, insomma è fare, è allenarsi. È dall'allenamento che noi ricaviamo la forza per poter vincere. Ora, io ho guardato tutti i video dei pugilato, quale esempio, insomma non è tanto bello, vedi questi, è violento. Ora io vi faccio vedere un filmato di pugilato, però questo, diciamo, si può vedere, ecco, e rappresenta al meglio quello che è la nostra lotta. Vogliamo vedere questo video del pugilato? I think triangle choke. Or maybe you should squeeze him between his legs so he gives up. Daiju's got to use movement is what he's got to use. This is what he needs, he's running away. He's got to use movement, even if it looks frustrating to the crowd. He's got to use movement and kicks to the legs. Kicks to the legs. At the knee. Oh, yes. Don't even go for a kick to the thigh. Oh, no, no, I don't even go for... Oh, a kick to the thigh could go. È proprio kick brutto, to the body, quello forget là. About it. Punching. Right. Mate, you cannot even kill this guy with a samurai sword if you stab him. He's too big. You don't even want to go over to the body. Emmanuel Yarborough had a classic match with Keith Hackney. Oh, body shot. This is a good place for maybe... Secondo voi, chi ha vinto? È il piccolino che ha vinto, se l'è andata a vedere, perché il grosso ha dato tanti di quei pugni a vuoto, all'aria, che si è stancata, è sudata, alla fine è caduto, e siccome tanto grosso non riusciva più a rialzarsi, ha vinto l'altro che lo ha preso sotto. Vedete, questa è realmente la nostra lotta. Noi dobbiamo fare in modo che il diavolo dia pugni all'aria e che alla fine cadrà lui. Quindi è l'allenamento che permette. Vedi quello là era agile, girava intorno, faceva dare tanti pugni a vuoto e poteva alla fine vincere e esercitarsi. E per noi l'allenamento, l'esercizio è proprio il mettere in pratica volta dopo volta, quelli che sono i consigli, quelli che sono i comandamenti, quella che è la parola di Dio, quello che il Signore ci chiede direttamente. Tutto questo non lo metti in pratica per incanto, non perché lo hai ascoltato, lo sai fare già domani, non perché tu lo hai letto, sei già in grado di realizzare quello che il Signore chiede, ma se ti alleni un passo alla volta, un poco alla volta. Allenarsi per noi vuol dire proprio adoperare quello che il Signore mette a nostra disposizione, i doni, i frutti, tutto quello che Lui... è l'allenamento che ci permette di metterli in pratica. Io lo so che noi vogliamo sempre vivere per miracoli. Il Signore deve fare ogni cosa. E sapete una cosa? Il Signore non lo fa. Non perché non ti può vedere, non perché non mi può vedere, ma proprio perché mi vuole bene. Vuole che io cammino con quello che Lui mi ha dato. Quali sono le lotte che noi affrontiamo? Quali sono le lotte che noi affrontiamo? Anche vedete, la parola di Dio è talmente pratica, è talmente quotidiana, è talmente indirizzata verso di noi che ci mostra quello che noi viviamo. Ecco perché noi dobbiamo fare ricorso alla parola di Dio. Leggiamo, questo è in 2 Corinzi al capitolo 7 verso 5, vedete che cosa c'è scritto in questo passo. Da quando siamo giunti in Macedonia, è sempre Paolo che dà l'esempio di se stesso, di quello che vive, lui illustra la sua vita. Infatti la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori e timori di dentro. Noi abbiamo, come Paolo dice, combattimenti di fuori e combattimenti dentro di noi. Ora, se noi parliamo il combattimento dentro di noi, qual è? Ora, Paolo ha fatto l'esempio di io corro, e corro non in modo incerto, perché l'atleta è temperato, cioè si è allenato. Quindi quando corro, corro per vincere. E molte volte gli ostacoli che noi incontriamo non ci permettono di vincere. C'è anche qui un filmato della corsa che ci fa vedere come spesso noi corriamo. Volete vedere? Ha guardato pure l'orologio. Era una corsa ad ostacoli. Era una corsa ad ostacoli. E come vinciamo gli ostacoli noi? Li vogliamo togliere davanti? No, li devi. Perché lui non li riusciva a superare questi ostacoli? Non si è allenato né dentro e né fuori. Ha visto l'ostacolo, dice: è più alto di me, non riesco a superarlo. Non riusciva a superarlo. Non si è allenato come si è allenato quello che ha vinto realmente e che ha potuto superare di corsa ogni ostacolo. Ora c'era un atleta molto conosciuto, molto forte, Mennea. Vi ricordate di Mennea qualcuno? Sì, eh? Era di Barletta, era nostro allora. Lui ha vinto in una maniera incredibile, sapete? Ha fatto dei record che sono durati più di 20 anni e che solo di recente sono riusciti a superare quei record. Ora lui non c'è più. Sono riusciti proprio da poco a superare quei record che lui aveva fatto. E quando gli chiedevano: ma quali sono i tuoi maggiori ostacoli? La sua risposta, sapete qual era? I miei maggiori ostacoli sono dentro di me. Non posso, non riesco, non ce la farò. E poi un'altra cosa, e dice: e come vinci questo? Allenandomi. Sapete come si allenava? Queste sono le storie di Mennea. Sapete come si allenava fin da ragazzo? Mennea faceva le corse con le macchine. Faceva le corse con le macchine, letteralmente. E da lì poi, logicamente, hanno visto che era veloce, lo hanno preso, lo hanno allenato come si deve e ha fatto vittorie su vittorie attraverso l'allenamento. I nostri maggiori ostacoli dove sono? I nostri maggiori combattimenti dove sono? Dentro di noi. Sono pensieri, sono sentimenti che il diavolo ha potuto guastare, a esagerare, a rendere talmente brutti che noi non sappiamo superarli. Il diavolo usa tutti i mezzi proprio per metterci ostacoli davanti a noi, usa i legami generazionali, la caratterialità che viene fuori, usa anche l'aspetto educativo che noi riceviamo, non solo nella famiglia, perché spesso nella famiglia è una buona educazione, ma la società fuori. Era di stasera la notizia che un, come lo chiamano, baby gang, no? 30 ragazzini, ma proprio ragazzini, hanno assalito altre 6 adolescenti e li hanno massacrati di botte. E poi quando andrai alla... ma sono tutti bravi ragazzi, sono tutti di buona famiglia, non sono cattivi uno ad uno. Perché allora si comportano in quella maniera? Molte volte semplicemente perché così fanno tutti. E allora lo faccio anche io. E così anche esperienze negative che noi viviamo ci creano paure dentro di noi, paure e timore che il più delle volte non sono reali. Ho paura dell'aereo. Ma hai mai volato? Dice: no. E di che hai paura? Paura dell'aereo. E così anche tante altre paure. Abbiamo paura delle cose che devono venire. Ma se ancora viviamo oggi, non hai chiuso ancora gli occhi per addormentarti questa sera, viviamo paure e timori che ci bloccano, ci frenano e non ci fanno vivere la gioia e la speranza che l'Evangelo dà, non ci fanno vivere la vittoria che il Signore vuole dare a ogni settore della nostra vita, in ogni aspetto. Perciò la nostra, quello che Paolo dice, non subire, non accettare quello che ti viene incontro, quello che stai vivendo, ma riconosci il nemico e attacca il nemico. Chi è il nostro nemico? Com'è bello, ci riempiamo la bocca, eh? È vero. Ma nella realtà, io parlo per me stesso, vedo una cosa, che i miei nemici sono tre. Uno, io stesso. Il più delle volte me la prendo con me stesso. me la prendo con me stesso, non quando non riesco, non ce la faccio, sono fatto così, e che vuoi che sia. Tutte queste frasi mostrano che noi vediamo il nemico in noi stessi. L'altro nemico qual è? L'altro. Ma veramente è reale il fatto che io mi chiedo pure la domanda: ma com'è possibile? È possibile che io non ho mai torto nelle discussioni con mia moglie? E come mai io ho sempre ragione? Non lo riesco a capire, ma sarò talmente perfetto? L'altro, la colpa è sempre dell'altro. Del governo, ma chi l'ha votato il governo? Vabbè, lasciamo stare. La colpa è ma siamo noi in mezzo. E il terzo, di chi è la colpa? Di Dio. Ma signor, ma tu mi vuoi bene veramente a me? E perché mi capitano tutte queste cose? E ce la prendiamo con il Signore. Il vero nemico, il diavolo, lo lasciamo completamente da parte. Lui lo lasciamo proprio sonni tranquilli, lo facciamo stare lì per conto suo. E questo vuol dire non allenarci a combattere il vero nemico. Combattiamo contro di noi stessi, ci sentiamo inferiori, ci sentiamo di meno, combattiamo contro noi stessi e alla fine siamo sfiaccati, siamo sfiniti, perché non riusciamo poi ad andare avanti. Combattiamo contro noi stessi e non contro il nemico, dando a noi stessi la colpa, e non prendiamo mai la posizione di vincitori. Combattiamo contro Dio dando la colpa, combattiamo contro gli altri, perdiamo tempo, stiamo rubando la gioia della nostra vita, stiamo rubando in questa maniera la speranza della nostra vita. Noi stiamo togliendo a noi stessi quando usiamo questo atteggiamento. Paolo dice: combatti il buon combattimento, vai a lottare contro il vero nemico. Ma per fare questo allenati. E sai una cosa bella del Signore? Quando tu cadi, anche come abbiamo cantato, quando tu cadi non sei squalificato. Dio non ti squalifica. Dice: ti stai allenando, e allenamento dopo allenamento vedrai che vincerai. Il Signore ha messo a nostra disposizione armi, è scritto armi spirituali, affinché noi possiamo vincere battaglie spirituali. Sono le armi di Dio, non dobbiamo usare le nostre armi, anzi, per vedere proprio anche gli esempi più belli, i doni dello Spirito Santo sono armi che Dio ha dato a noi, i frutti dello Spirito Santo sono armi che il Signore ha dato a noi, sono armi specifiche per situazioni specifiche, sai? Non è proprio, sono armi adatte. L'esempio, ecco, facciamo l'esempio. L'esempio più bello che ci illustra che cosa vuol dire un'arma adatta per una situazione è la storia di Gedeone. Più o meno tutti la conosciamo, no? È scritto in Giudici al capitolo 6. E se non la conosciamo, andiamola a leggere, perché dobbiamo usare la parola di Dio in questa maniera. Gedeone, bello, se ne stava per i fatti suoi, come noi ce ne stiamo per i fatti nostri. Un giorno a Dio gli è venuto in testa, dice: no, a questo lo devo chiamare, questo mi serve. Come ha fatto con noi, come ha fatto con te? Non ha fatto così? Sì, è vero. E si è presentato l'angelo da Gedeone e lo ha chiamato. Gedeone, che cosa ha fatto Gedeone? Se guardate, era solo lui e l'angelo. Era in una grotta, era in una caverna, cercava un altro. Dice, ma come, proprio io? Sì, tu. Fra tanti, e io sono il più piccolo, vi ricordate la storia? E io, la mia famiglia non vale niente, e la mia tribù non conta niente, proprio a me. E l'angelo lo convinceva di tu non ti preoccupare, non lo devi fare tu, non ti preoccupare che riceverai la forza. Alla fine, insomma, non proprio, dice va bene, però come a noi, proprio uguale a noi, dice però dammi una prova. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Quante prove abbiamo chiesto? Allora dice, io mi metto questo vello che è il manto della pecora, lo metto in questo campo e domani mattina, se la rugiada è solo sul campo e non sul vello, allora vuol dire che mi hai chiamato proprio. La mattina si alza e la prima cosa che va a fare qual è? Vede che il campo è pieno di rugiada, mette la mano sul mantello ed era asciutto. Allora veramente, cioè io avrei fatto salti di gioia, dice ma il Signore mi ha dato un segno così forte. Che cosa fa Gedeone? La controprova. Diciamo, vediamo, è veramente vero il fatto? Dice, Signore, facciamo al contrario. Mo, domani, se trovo bagnato solo il vello e il terreno è asciutto, vuol dire che mi hai chiamato. L'indomani era esattamente così. Allora, a quel punto, Gedeone era con le spalle al muro, non ne poteva fare niente, allora va bene, ha detto sì, va bene, vado a combattere, vado a lottare per liberare Israele dalla schiavitù dei Madianiti. Allora che cosa ha fatto? Sapete che cosa ha fatto Gedeone? È andato casa per casa, porta per porta, d'aiuto, dice per piacere aiutatemi perché io devo combattere, sono da solo, non lo so come devo fare. È andato dappertutto a girare e a raccontare, alla fine ne ha raccolte sapete quanti? 32.000 persone in grado di combattere al suo fianco per liberare Israele. E si presenta a Dio, sai, quando è impettorito lui, tutto bello orgoglioso, a dire, vedi, adesso posso andare a combattere. Che cosa gli dice il Signore? So assai. Come so assai? Quelli sono più di noi, già questo. Allora dice il Signore a Gedeone, tutti quelli che hanno paura, mandali a casa. Sapete quante se ne sono andati a casa? 22.000! Erano rimasti in 10.000! E si presenta al Signore, ma Signore, mo che facciamo? E invece di ricevere grazie, riceve giustizia. Perché? Che cosa gli dice il Signore? So assai. Allora dice, vai al fiume, vedi, osserva tutti quelli che bevono. Chi si inginocchia e beve direttamente dall'acqua e poi chi invece rimane in piedi e si porta l'acqua alla bocca. Quelli che si portano l'acqua alla bocca sono quelli che io voglio. Sai quanti ne erano? 300. Da 32.000 a 300, dice, emmo, che faccio? Cioè, praticamente, voi dovete immaginare anche i filmati che abbiamo visti, questi accampamenti immensi che sono a perdita d'occhio con le tende, sono accampati per combattere, e questo con 300 persone. E in più il Signore gli dice, prendi le armi. E quali sono le armi? Una brocca, una fiaccola nella brocca e una tromba. E manco un temperino in tasca che non si sa mai. Niente. Quelle erano le armi di Dio adatte per quella battaglia. Perché tramite quelle armi tutto l'intero esercito dei Madianiti è stato messo in fuga, si sono combattuti fra di loro, praticamente quei 300 uomini non hanno nemmeno combattuto, non hanno fatto niente, e questo è l'atteggiamento per noi. Ecco perché noi dobbiamo dare ascolto alla parola di Dio. Allora facciamo l'esempio pratico per noi, prendiamo un'arma pratica che io amo molto, le nuove lingue. Come Gedeone, sono irrazionali, sono illogiche e diciamolo pure, sono pure imbarazzanti. Quando parliamo, ci guardiamo che l'altro non ascolta come io parlo. E invece è proprio usare quelle armi. Sai che cosa fai nel momento in cui tu parli in lingue, affronti le situazioni parlando in nuove lingue, nel qualsiasi situazione stai vivendo, di casa, di famiglia, di figli, di lavoro, di soldi, di malattia, qualsiasi cosa, tu stai edificando te stesso, stai mettendo edificando, vuol dire costruire, stai mettendo pace, stai mettendo gioia nel tuo cuore e hai la forza per affrontare quelle cose, e in più stai facendo ancora un'altra cosa: chi parla in lingue sta guarendo se stesso, perché è scritto che in spirito proferisce, racconta misteri a Dio. E che misteri? Sono tutte quelle cose, io dico sempre, del mio subconscio, di quello che nemmeno io conosco, che trasmetto al Signore, e Lui li guarisce dentro di me, e Lui li guarisce e io ricevo forza per affrontare ogni cosa. Ecco, allora usale. Era proprio dolce dolce questa volta, ma bellissimo, bello. Il più delle volte mi spavento di che passaggio sia questo, era proprio un'entrata molto bella. Grazie Joe. Allora andiamo un poco veloce, però andiamo dolce come la musica di Jonathan, va bene? Così i frutti, Galati, leggiamolo, Galati 5:22, vogliamo leggere i passi perché sono importanti. Galati 5 verso 22, lo troviamo, forse questo non, fra i tanti passi che ho dato, questo non è riuscito tanto bene, vero? Allora lo andiamo a leggere insieme, lo conosciamo, lo dovremmo conoscere, Galati 5:22, l'elenco di, quanti sono i frutti dello Spirito Santo? 9, come i doni. Ascoltate che cosa è scritto. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è niente, non c'è legge, non c'è cosa che li può vincere. Queste sono armi che Dio ci ha dato. Armi che Dio ci ha dati. Autocontrollo. Che cos'è l'autocontrollo? Le mani in tasca. Dice, quella è un'arma, è l'arma più potente. E ancora possiamo dire, pazienza, non è pazienza, no, pazienza, saper aspettare il momento di Dio. Queste sono armi potenti che ci permettono di vincere situazioni fra le più difficili. E noi ne ricaviamo gioia e diamo pace anche agli altri. Questi sono i combattimenti di dentro che, con cui, e le armi che il Signore ci ha dato, e questo funzionano veramente. funzionano veramente? Provale, provale, ma provale veramente, provale veramente. Questo è allenamento. E poi ne discutiamo se funzionano o non funzionano nelle varie situazioni. Non sempre funzionano quando non le uso. Ma se le uso, funzionano sempre. Velocemente. E poi è scritto anche, che abbiamo letto, Paolo dice, combattimenti di dentro, paure dentro, e combattimenti di fuori. Quali sono i combattimenti di fuori? Gli attacchi che ci vengono. E da chi ci vengono gli attacchi? Sempre dagli altri. Gli altri sono, ecco quello. E anche per dire le tentazioni. Ma qual è l'arma più potente? Questo me lo dovete dire. L'arma più potente che il Signore ci ha dato quando noi veniamo attaccati dagli altri. E veniamo attaccati dagli altri, veniamo attaccati con critica, mo si dicono fake news, allora va bene, ma è la stessa cosa, no? È solo un termine più gentile. Critiche, veniamo attaccati con veramente maldicenze, con cose, con... insomma, nemmeno a poterli nominare, molte volte dalle persone più vicino a noi. Qual è l'arma più potente che ci permette di vincere? Il perdono, ha detto Gesù. Il perdono, vedi, abbiamo trovato la scorciatoia, la preghiera, preghiamo e tutto. È il perdono è un'azione reale verso l'altro. È il perdono, quante volte? Una volta, due volte, tre volte, quante volte? Gesù ha detto 70 volte 7, sempre. Vedi, quando l'uno ti attacca, Gesù dice, se uno ti attacca, porgigli anche l'altra guancia. Due ne ho, ma con il perdono? No, col perdono devi continuare, perché questa è l'arma più potente per vincere per te stesso, ma anche per l'altro. Vinci anche per l'altro. Ecco perché noi dobbiamo usare queste armi. È scritto in Romani al capitolo 9, non lo so se adesso questo viene, vediamo. Romani 9, verso 20. Insomma, li ho mandati in gris con i passi, va bene, posso leggere io, meno male che ci ho... è venuto, no, non sono stati segnati. Romani capitolo 9 verso 20, un momentino che lo cerco. E è scritto: piuttosto, no, ma pure io allora alla fine non è quello, ho sbagliato, era un altro passo, ma va bene, era il passo che dice, ve lo posso citare così perché ce l'ho dentro, è quello che dice lasciate a me la vendetta, perché è Dio che combatte per noi. E quando noi perdoniamo, sapete che cosa facciamo? Accendiamo carboni. Mo c'è. Era 19, era 12, ecco, l'ho dato giusto e io l'ho spegnuto. A voi, ma mi avete fatto fare la figuraccia, mi avete fatto fare. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sullo suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questa è l'arma potente di Dio. Questa è l'arma potente di Dio, fratelli e sorelle. Con questo noi vinciamo. È semplice? No, io dico è difficile, però l'allenamento ci permette di metterla in pratica anche un passo alla volta. Ora, un'ultima cosa, vediamo le tentazioni. Le tentazioni, 1 Corinzi 10:13. Ci basta questo. Dice, ma io sono tentato. Poi specialmente, sai, quando passi una donna davanti a una pasticceria, dici, mo che tentazione. Tutto davanti a me. Quella sta da lì da una vita, quella pasticceria. Tutto davanti a me. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. È incredibile. Questo già basta. Quando noi siamo tentati, il Signore dice: non esiste che cerchi delle giustifiche, non esiste che cerchi o che ti rassegni, dice così deve andare. Non esiste, non ce la faccio, non esiste più grande di me. Il Signore dice: sei tentato? Non è più forte di te. E se per caso avverti che è più forte di te, ci sono io. Ecco il mettere a fianco e praticare. Ora combatti il vero nemico, e qui voglio anche terminare, combatti il vero nemico, il tuo vero nemico. Come combatterlo? Molto semplice, anche qui ho visto su, mi hanno inviato, ed è molto bella, un'immagine che raffigura veramente che cosa vuol dire combattere e come combattere il vero nemico. Vi mostro questa immagine, è l'ultima. È un'aquila che ha afferrato un serpente. Che cosa fa l'aquila? L'aquila non combatte il serpente nel suo territorio, perché sa che il serpente è più forte, sa che il veleno del serpente, perché lo spruzza, lo fa, la uccide in un batter d'occhio. Che cosa fa l'aquila? L'aquila afferra il nemico, afferra la preda, afferra il serpente e lo porta nel suo territorio, che è l'aria, dove il serpente, vedete, non ha forza, non ha coordinazione, non ha modo di combattere. Ed è quello che il Signore vuole dire a me e a te. Riconosci il nemico, non prendertela con te stesso, non prendertela con l'altro, non prendertela soprattutto con Dio. Il nemico tuo è uno. Riconoscile nelle sottigliezze, nelle situazioni, laddove si trova, e portalo nel tuo territorio, che è il territorio di Dio, è il territorio della preghiera. È lì vinci certamente. A questo il Signore ci ha chiamati, a combattere alla sua maniera, e noi usciamo vittoriosi in tutte le situazioni che stiamo affrontando. Io non so quello che stai vivendo. Probabilmente un'infermità che ti prende tutta l'attenzione, perché il dolore è sempre brutto. Probabilmente una situazione non bella in famiglia, capitano. probabilmente una situazione di dentro, paure e timori che forse non sono reali, ma le conseguenze sono molto reali nella vita pratica. Allora prendi l'atteggiamento di usare le armi che a Dio ti ha date e usale e riusale, e non dire ho già pregato, e non dire hanno già pregato per me, e non dire già l'ho fatto. Fallo e rifallo come il perdono, fino all'esaurimento, fino a che ti arrendi nelle mani del Signore e Lui può vincere per te, per ognuno di noi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Padre, nel tuo nome vogliamo dirti grazie soprattutto per la tua parola e per come ti sei preoccupato individualmente per ognuno di noi, affinché noi potessimo mettere in pratica il messaggio, la chiamata che hai fatto a ognuno di noi, oh Signore. E grazie che noi siamo forti e vincitori in te, più che vincitori, in virtù di quello che tu sei per noi. Ti rendiamo lode e gloria. E Signore, la mia preghiera in questo momento è per ognuno che sta affrontando delle lotte, che ha una lotta in corso. Signore, dagli da alzarsi in piedi, prendere posizione e lottare alla tua maniera con le tue armi, nel tuo nome Gesù. Amen.